المدثر، l'avvolto nel mantello. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. يا أيها المدثر. O tu che sei avvolto nel mantello. قم فأنذر. Alzati e ammonisci. وربك فكبر. E il tuo Signore magnifica. وثيابك فطهر. E le tue vesti purifica. والرجز فاهجر. Allontanati dall'abiezione. ولا تمنن تستكثر. Non dar nulla sperando di ricevere di più. ولربك فاصبر. Ma sopporta con pazienza per il tuo Signore. فإذا نقر في الناقور. Quando sarà soffiato nel corno. فذلك يومئذ يوم عسير. Quello sarà un giorno difficile. على الكافرين غير يسير. Niente affatto facile per i miscredenti. ذرني ومن خلقت وحيدا. Lasciami solo con colui che ho creato. وجعلت له مالا ممدودا. Cui ho concesso abbondanza di beni. وبنين شهودا. E figli al suo fianco. ومهدت له تمهيدا. Al quale ho facilitato ogni cosa. ثم يطمع أن أزيد. E che ancora desidera che gli dia di più. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. No. In vero è stato refrattario ai nostri segni. Lo costringerò a una dura salita. Ha ponderato e l'ha definito. Perisca per come l'ha definito. ثم قتل كيف قدر. Sì, perisca per come l'ha definito. ثم نظر. Quindi ha guardato. ثم عبس وبسر. Si è accigliato e rabbuiato. ثم أدبر واستكبر. Ha volto le spalle e si è fatto altero. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. E ha detto: questo non è che magia appresa. إن هذا إلا قول البشر. Non è altro che un discorso di un uomo. سأصليه سقر. Lo getterò nel calore che brucia. وما أدراك ما سقر. Chi mai ti dirà cos'è il calore che brucia? لا تبقي ولا تذر. Nulla risparmia, non lascia nulla. لواحة للبشر. Carbonizza gli uomini. عليها تسعة عشر. Gli stanno a guardia 19 angeli. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة